Delizie moderne, la droga. Fa davvero specie udire ancora delle grida di allarme e deplorazioni, accorati moniti contro l'uso delle droghe. Ma c'è della gente ben ostinata. Come si fa a chiudere gli occhi dinanzi all'inarrestabile progresso delle cose? Le antiche leggi suscitano ormai incredulità e compatimento. Proibito severamente lo spaccio e perfino l'uso di cocaina, eroina, hashish, LSD, marijuana, peyote, eccetera. Alle mentalità di allora forse sembrava logico e giusto, ma l'umanità covava le sue oscure istanze destinate a dirompere vittoriosamente. La natura stessa vi andava incontro. Un primo indizio fu la constatazione che dalla semplice buccia di banana, debitamente trattata, si potevano ricavare sensazioni deliziose. Di anno in anno gli sperimentatori aprirono poi nuovi orizzonti, senza violare il codice. Una successione di gloriose scoperte. Le patate lesse, ingerite al buio completo, procuravano dionisiache visioni. Effetti di intensità non minore si ottenevano con l'infuso di vecchi vocabolari mescolato all'olio di genziana, o ascoltando a ritroso le musiche di Wagner, o impastando meringhe con la bava di cani boxer. Ci fu quindi la moda della ginnastica psichedelica, alquanto faticosa a dire il vero, tuttavia efficacissima. Ed eccoci alle più recenti conquiste. L'atmosfera stessa che circonda il globo terracqueo è uno stupefacente. Basta immetterla ed espellerla dai polmoni secondo un ritmo particolare di facile apprendimento. Di più, la vita medesima è l'ultimo grido. Il fatto stesso di esistere è una droga potentissima. Tutto sta nel non ostacolarla in alcun modo, nel lasciarsi andare. E si sprofonda in un paradisiaco delirio.